funziona per induzione. Ah, così è. È normale. È normale, non è che sia normalissimo, ma per dire ci sono quei strumenti come giratore di campo che ti segnala stazionare senza il cavo. Allucinante, va, io schiaccio la portante, adesso sto parlando io e la gente si sta muovendo. Dove l'ha rimesso, dove era? Oh, è staccato dall'apparato, senza lo spinotto mi ha inserito. Stai parlando senza spinotto? No, sto parlando dall'altro microfono, però l'altro microfono a tavola ce l'ho staccato, ce l'ho sopra il letto. Quando schiaccio la portante, se lo smitter segue la tua modulazione e anche la mia. Portante dello smitter del microfono. Quando schiaccio la portante del microfono da tavola, no? Si muove lo smitter. Allucinante. Sarà col fantasmino dentro, guardi Natale. E tu stacca la batteria vedere muove. No, così li togli i viveri. E allora? Sai da bravo qualche. Ma va bene, sono me. E non ci credi? Guarda, io sto modulando e la gente si sta muovendo. Allucinante. Capito. Non sembra che ti ha attaccato la parete. E cos'è? Perché lo fa? Perché tu parli con la portante schiacciata e quindi fa funzionare lo smitterino e ti dice che sta uscendo. Ah, cappa cappa. A parola io, anda bene bene. Capretto. Ah, capretto, capretto, un attimo di bianco. Ebbene, Gianni, non più ruba. Gianni, capre 2, come ti arrivo alle tue coordinate, cambio? Capretto c'è sceso. Ma com'è, Gianni, cosa temi? Beh, il mio pesante come il tuo lavoro non è che sia leggero, no? Guidare solo è una cazzata. Lo so già, lo so, io l'ho fatto il trasportatore, ho fatto anche magazziniere, so cosa vuol dire, non ti preoccupare, è pesante, ma molto pesante. E se mi capita di addormentare è proprio perché c'è una stanchezza da non poter controllare. Capa, già va bene, riprendi tu e fai girare già. Capa, capri 2. Chi è che sta ridendo? Io sto ridendo, che vedi tu, stai rilanciando il capretto e fai il capretto e fai la cadria. Ah, se c'è tutta la bavetta come sta arrossando, i baffi dritti da Hitler. Cappa cappa, mamma, Natale riprenditela. No, sorride perché non l'avevi ripreso quando ti hanno rilasciato 2 o 3 volte. Che sta i busci crisi sì. Apri tu, non mi dici. Telecamera, perché? L'hanno installato il comune. Quella serve a me come telecamera, stasera passo dell'attacco. Arrubasso. Sì. Via. Paga. Ti fanno il filmino, ti fanno. Tanto la fotografia te l'ho già fatta io, adesso ti fanno anche il filmino con la telecamera. quanti da Gianni e controlliamo questa telecamera che mi serve. Ah, io penso a tenere l'antenna. Dai, in due ore li tiriamo sull'antenna. Però basta che ci decidiamo, Mimmi. Avanti, così ti filma. E capo, è perché non ne piatti più? E che cosa stai facendo di male? Stai rubando? Se poi non la piatti più, dimmi dove la butti, Nico, l'antenna che passo e me la piatto io. Allora, Caprinù, ricordati sempre una cosa, la gente avrà sempre da dire che fai bene o che fai male, quindi fai sempre come credi tu, di testa tua, non ascoltare ciò che dicono gli altri, non ti fare imbambocciare dagli altri. Solo gelosia, la gente parla solo per gelosia, Gianni Capri 2, ascolta le parole di Giuseppe e di Doppio Rum, ascoltale bene per me, perché poi loro se ne ridono lo stesso alle tue spalle, anche se moduli o non moduli. Fai quello che ti dice il tuo cuore. L'altro giorno mi ha fermato una persona a me quando ha visto l'antenna del baracchino sulla macchina e mi ha chiesto come mai quell'antenna era così lunga. E quando siamo in verticale ti dico che cosa gli ho risposto, perché qui in radio non si può. Ho parlato da solo. Influenzare troppo dagli altri, non sei un bambino, non è che decisione devi prendere tu, non è che siano gli altri, a me una volta questi ragazzi stavano passando e mi hanno detto carta un'antenna, sono messi a ridere, io mi sono girato e ho detto se l'avresti avuta dietro non l'avresti vista. Ma che li assassa, li lascia riperdere quelli. Fa tuttora nei terremoti, nelle cose, le radio in genere, funzionano, non solo quelle, perché quando sono partiti i miei colleghi fuori per il terremoto mi hanno detto che i cavi del telefono non funzionavano più, le linee telefoniche non ce n'erano, usavano tutti il baracchino, capito? Tutti quelli che ce l'avevano avevano radio, VHF, baracchini, tutte queste cose qua. Gianni? Ignorante, anche se laureato ignorante in certe cose. Ignorante significa che ignora quella materia, non è che sia una cosa offensiva. È ignorante in quel senso lì. Non è specificatamente, diciamo, come si può dire, informato su quella materia. C'è poco da fare. Ma chi ne frequenta chi sa niente, manda di tutti in suoi paesi, frequenta la gente normale che accetta le cose come sono. Tanto questa gente altolocata è sempre con la puzza sotto al naso. Io ho conosciuto una dottoressa che si è messa a scherzare con me cose, le ho detto complimenti dottore, mi ha fatto piacere cose, mi ha parlato della sua vita, delle cose, io sono rimasto anche un po' così Giuseppe, sono rimasto, fatto proprio, c'era cioè, una dottoressa che ti parla di certe cose, e lei non sa cosa mi ha risposto, io la laurea ce l'ho e me la tengo, però io sono una persona normale, con tutti sono voluta bene a tutti per il mio carattere. Ebbene, bisogna essere così, bisogna essere sempre umili e volare bassi. Poi per quanto riguarda la storia di Gianni Capri 2, lascia perdere la gente, ma io guardo per casa mia, a me possono dire che hanno visto l'asino volare, che io quando sono dentro casa penso con la mia testa, faccio con la mia testa, non ho bisogno di essere preso per mano per nessuno. Io solo una cosa volevo dire a Gianni Capri 2, se ti sbrighi diamo un pochino come questa antenna. In che condizioni hai questa antenna, Gianni? La tua, quella che è sul tetto, perché qui stai cominciando a sparirmi in mezzo al QRM di Giacchia. Mi aspetta quando piove. Cappa. Io l'ho presa da Grassi, senza stare lì a andare in internet e fare, e ti arriva la carica che è schiacciata e cose. Io ne ho pagata manco 100 euro mi, la cosa, l'antenna già. La prendi, te la porti a casa, la piatti e risolvi tutto quanto. Già perso in mezzo al QRM e non capisco più niente. Basta che tu metti più lunghi i bulloni con i dadi e hai fatto il gioco e lo abbraccia lo stesso il palo. Thank you. sistemato anche il palchetto. Tu sei l'unico che devi sistemare, eh? Bisogna decidersi perché già con quell'antenna hai fatto anche fin troppo danno perché lo sappiamo tutto quello che ti ha causato. Cosa dire? Io quando ho dovuto cambiare l'antenna ho preso il coro per le corna e niente, sono andato e l'ho presa, l'ho piazzata, ho fatto tutto e via, però non ci pensi più. Capito, te l'abbiamo detto in lungo e largo che era quello e tu l'hai fatti brincare un martesi, cioè. Come ti diceva quella canzone, parole, fatti, non parole, già, decidi di fare i cosi. Con tutto quello che è saltato di antenne ne uscivano 10. Infatti. Oia, Gianni, se davi retta un macco. 5 a me da lavorare, devo partire alle 5 da Sassari. Quindi non sai cosa c'è, tutti abbiamo di questi problemi al lavoro, ma una volta che chiudiamo la porta al lavoro, viene la famiglia, vengono le altre cose, la chiudi e basta, e non ripensi più, perché tutti ci hanno, devono abbassare la cresta, molte volte devi chiudere tutti gli occhi, stringere i denti e via. Se però poi una volta che esci dal lavoro il discorso deve cambiare, se no fai solo, sei solo inquadrato sul lavoro e basta, devi avere anche i tuoi svaghi, le tue cose, e se qualche cosa dentro ti consiglio di parlare con qualche persona fidata, tranquilla, di modo che ti sfughi, se no ti tieni tutto dentro e poi si trasforma in crisi, è normale, no? Vabbè, detto questo, poi ne parliamo magari in verticale, e diciamo, boh, io sono fatto così, perlomeno io non mi metto problemi anche a parlare con tutti, no, sono fatto in questa maniera, però riesco a liberarmi delle mie cose, delle mie frustrazioni, delle mie, diciamo, quando sei nervoso, quando non hai voglia magari di fare le cose, cose, ti liberi magari parlando, non hai capito? Dove faccio servizio di ambulanza, ho fatto dei corsi e riesco a capire il carattere delle persone anche per la mia sensibilità, e io ho subito percepito quello che tu potessi avere. Vabbè, comunque io non ti ho detto di parlarne qua, ti ho detto parlane con qualche amico fidato, o con tua moglie, o con chi ti possa fidare, non parlarne qua all'apparato, ci mancherebbe altro. L'unico modo di espellere le tue problematiche è quello, il fatto di parlare, che ti sfoghi e via, tutto lì, non è che... Poi, detto questo, rilanciare tutto a Giuseppe, se lo monopolizziamo, Giuseppe... Tranquillo Gianni, tranquillo, qui è tutto sotto controllo, perché io fra un pochino vado a vedere se i signori sono rientrati, perché io poco fa sono sceso ma non mi ha risposto nessuno. Ma mi faccio un'altra discesa. Ma i signori del rumorino? Cappa. Ma non può stare tu io? A quanto pare comunque nella mia via, nella mia via, perché ho fatto i giri e tutte cose e sparisce. Beh, dice, da quanto tempo te l'ho detto io, nella tua via? Ho detto già da un bel tempo, da quando io sono passato in macchina e ho fatto il giro, ho constatato del segnale. Che poi ti venga dall'alto, questo non lo so, a meno che te lo proiettino dall'alto, e allora questo non si può sapere dove viene, ma perlomeno passando in macchina sembrerebbe così, ma non lo so, capi due, e allora, attacca, rimano benissimo, cioè cosa devi fare, comprati la casa a Sassari, così ci troviamo al quadrato, la sera, ci facciamo una chiacchierata, ti passa tutto. stavo andando a farci una discesina per cercare il rumorino sempre, sta perseguitando il rumore, prima era il rumore che perseguitava lui, adesso è lui che ha perseguito il rumore, fino a quando quello fa schioccare. Tutte le sere, dalle 7:30, 8, comincia questo rumore assordante che non lo fa parlare in nessun canale, lui ha pagato una concessione per non poter modulare. Quando se dovesse succedere a qualcuno col televisore, vedi bene che subito la prima cosa che dicevano, quello lì è quello col baracchino che disturba. capito, ti avrei voluto telefonare, però non sapevo come comportarmi, perché già mi dicevo, è una decisione che ha preso lui, va rispettata, è inutile che io le telefoni, solo che mi dispiaceva perdere l'amicizia, è questo qui che mi rompeva. Thank you. lavoriamo proprio quando sono stanco, il periodo che si lavora molto mi fa questo lavoro qua. Sul tavolo non sono mai crollato, perché se io sono in piedi posso rimanere anche se alle 4 di mattina, alle 5 di mattina, non ho problemi. Solo che se sono sdraiato sono subito. Specialmente la roba da mangiare, so che cosa ci vuole in casa. Oh, guardi, a parte quello, nel lavoro mio devo ricordarmi marche e qualità, perché ogni marca c'ha anche diversi tipi di merci. Ecco, e mi devo ricordare un po' di cose, la mia mente è sempre allenata e i miei colleghi mi dicono, ma come cavolo fai a ricordarti la mente? Io se non me lo sento non me la ricordo. E sono più giovani di me. Dico sì, adesso sta un po' le targhe della macchina, della moto, qualche numero di telefono, non mi ricordo. Non sapevo se dovevo andare o meno, tutto lì. Va bene, domani mattina allora alle 8:30. Io ero più contento se me la piantava stasera. Così facciamo schiattare a Capri 2. 9:30 ha detto, non le 8:30, non cacciambare l'orario, dalle 9:00 alle 9:30. Si torna alle 8:30 e la cacciamba con il pigiama. Vedi, addirittura. E noi vorrei stare in mutandini. D'accordo, va. Ti ringrazio tanto, già. K.K. Avanti, Capri. Gianni, Gianni. Parliamo in verticale già, e qua ci sono troppe orecchie che ascoltano. te la mamma a calo dove sta qua. fatto, siamo sempre lì, vai. Né più né meno. Tutto qua. Ui, ai, ma tu che lo giro. Sei tornato, Luigi, eh. Bel sole, bello, bello. Positivo, anche io faccio un attimo un pochettino di fianco.